Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Ed eccoci qui con l'Adico, con il presidente Carlo Garofolini. Buona giornata e buona settimana. Ciao Mirko e un saluto a tutti. Crisi è un filo conduttore che ci accompagna spesso, purtroppo, in questo spazio. Uno degli effetti della crisi, non sappiamo se benefico oppure no, riguarda la nostra tavola, cioè la preparazione proprio del cibo, del pranzo e della cena, giusto? Certo Mirko, riguarda soprattutto la tavola, e cominciando proprio a dare un dato significativo per comprendere l'evento di cui stiamo parlando oggi, diciamo che con la crisi è arrivata una tra virgolette sola nota positiva, e che lo spreco di cibo fondamentalmente è stato annullato nel 24% delle famiglie, mentre l'anno scorso era fermo al 9%. Quindi cosa vuol dire? Che la riduzione è stata ottenuta acquistando quello che serve davvero dal 67% delle famiglie. E quindi la crisi costringe anche a cambiare un po' delle abitudini, anche cattive abitudini, perché se si buttava via tanto cibo, e tuttora magari se ne butta via tanto. Sì, ha costretto a cambiare delle abitudini sicuramente, e si butta via molto meno cibo, ma anche si ricicla molto di più, perché quello che è avanzato oggi viene mangiato il giorno dopo, e quello che non viene mangiato il giorno dopo, in molti casi ci si ingegnano anche delle ricette per poterlo poi riutilizzare, e questo sicuramente devo dire è l'unica nota positiva di questa crisi. Certamente il fenomeno è un fenomeno conseguente a questa che è una crisi, e per cui ritengo che, come tutti i fenomeni, devono essere anche analizzati per indurre chi ci governa a riflettere e comprendere anche l'entità di questa crisi. Ecco, tra le tante abitudini, ad esempio, c'era magari quella di fare colazione fuori casa. Poteva costare qualche euro, 2 euro, 3 euro ogni giorno, moltiplicato alla fine del mese faceva comunque un discreto gruzzoletto. Adesso magari questa è una delle tendenze, cioè si fa colazione in casa. Sì, anche qui abbiamo dei dati molto interessanti. Ricordiamo che è un'indagine della Coldiretti, che praticamente la cucina è tornata ad essere non solo un luogo dove si consumano i pasti, ma anche un posto dove si prepara di tutto o quasi. Cominciamo proprio, come hai detto te, dalla colazione, perché se una volta c'era la tendenza diffusa da parte di molte persone la mattina di recarsi al bar, bersi il famoso cappuccino con la brioche, oggi invece c'è stato un aumento di quello che è l'acquisto delle fette biscottate, del caffè, del miele e delle marmellate. Quindi cosa vuol dire? Che questo aumento ha indotto le famiglie a mangiare tra le mura domestiche anche la mattina, e non pensare più come una volta di andarsene al bar, anche se comprendo che per molti era un rito ed è tuttora un rito alla quale difficilmente si rinuncia. Però ecco, cominciamo proprio dalla colazione, mentre lo stesso fenomeno riguarda anche il pranzo. Per esempio la pasta, malgrado gli aumenti che hanno avuto in questi ultimi anni, che l'ha aumentata di circa il 20%, comunque rimane un pasto ancora molto economico da comprare, e soprattutto un pasto semplice da preparare, e questo sicuramente e spinge le famiglie sempre più a pranzare a casa, e quindi sempre meno al ristorante o presso i locali dove erano abitudinari prima. E quindi le basi della dieta mediterranea, quindi il pane e la pasta, continuano ad essere comprati nonostante gli aumenti. Posso immaginare, insomma, una volta si diceva che la carne era una cosa preziosa e anche costosa, posso immaginare che siano calati i consumi di carne, che poi non farebbe bene mangiarla troppo spesso. Sì, non farebbe bene mangiarla troppo spesso, però c'è anche qualche monito lanciato in occasione di questa indagine, dove c'è anche il rischio però che in un'ottica di risparmiare si cerca di perdere di qualità e ricadere su quelli che sono dei prodotti che magari alla lunga non potrebbero neanche fare troppo bene, perché comunque la dieta sappiamo tutti che deve essere arricchita e variegata. E proprio parlando di snocciolando appunto questi numeri, ci rendiamo conto come per esempio sono diminuite è diminuito l'acquisto delle bistecche, del pesce, del dessert, e anche in generale gli acquisti degli alimentari sono calati, e siamo tornati a valori quasi a quelli che erano i valori del dopoguerra, per cui si ritorna a mangiare pane, polenta, quindi sai, sono tutte cose che certamente, come dici te, bisogna dare un'interpretazione importante, però ecco, bisogna anche un attimino saperla valutare con serenità, perché questi sono fenomeni che sicuramente contribuiscono a darci una dimensione di quella che è la condizione in cui molte famiglie sempre più frequentemente ricorrono per poter anche arrivare a fine mese. Eh sì, perché poi c'è, come si dice, no, il problema di mettere insieme il pranzo con la cena, un problema che riguarda alcune persone, non tantissime, ma c'è una quota significativa che ha effettivamente questo problema. E quindi attenzione alle scelte che si fanno, cioè cercare sempre il cibo di qualità e non accontentarsi magari di scarti o di macinati o di cose di secondo livello. E magari, Carlo, aguzzare la fantasia. Adesso ci sono anche tanti programmi televisivi dedicati proprio alla cucina, alle ricette, e quindi può essere anche un incentivo, insomma, per valorizzare le nostre capacità domestiche. Certo, sono d'accordo, come hai detto te, molte trasmissioni, anche molti libri, molte rubriche, molti siti internet dove danno anche dei consigli, dei suggerimenti. L'importante che noi come Adico ricordiamo sempre è quella di guardare la data di scadenza, ricercare se possibile Made in Italy, la stagionalità per quanto riguarda i prodotti freschi e soprattutto avere molto riguardo su quello che è la conservazione dell'alimento, soprattutto una volta che viene aperto dalla sua confezione. Eh sì, sono i consigli ovvi, ma che a volte capita di aprire il frigo e di trovare delle cose scadute perché magari ci si è dimenticati di consumarle, si sono nascoste tra i vari ripiani. E allora con questo cambiamento che ciascuno di noi può testimoniare a suo modo, ci auguriamo anche buon appetito, perché poi le cose fatte in casa di solito sono buone, magari hanno lo stesso sapore ma hanno quel valore in più dato proprio dalla preparazione delle mani in casa. E fra un paio di giorni affrontiamo un altro argomento. Grazie Carlo e all'Adico, buona giornata. Ciao, grazie a te Mirko, un saluto a tutti. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.